Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Le pecore vanno bene anche se sono piccole e i granchi invece vanno più sotto. Questo vi racconterà Mebius in apertura della puntata. Buonasera a tutti e tutte, e i titoli ora, ascoltiamoli insieme. Le pecore vanno bene piccole e i granchi vanno meglio in profondità. Nuovi segnali arrivano dall'innalzamento delle temperature. In un futuro non lontano potremo guidare autoparlanti che comunicheranno tra loro e si daranno informazioni utili sul manto stradale, sugli ostacoli o sulla segnaletica. Tutto per la nostra sicurezza. Da Londra una notizia decisamente sorprendente. Pesavano 18 tonnellate in meno. Di chi stiamo parlando? Dei dinosauri. Design for All, ovvero progettare per tutti, è il titolo di un libro che promuove una cultura della progettazione. Nella settimana della Luna raccontiamo lo scherzo lunare del quotidiano New York Sun, giocato ai suoi lettori nel 1870. Come al solito raggiungo Paola Rebusco su Skype. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Prima le pecore oppure prima i granchi? Io inizierei dalle pecore in onore del mio cane, che essendo un pastore. Un pastore, ed è lì vicino. Sì, un border collie qua vicino, sì. Però per entrambe, sia pecore che granchi, siamo in Inghilterra. Sì, gli autori di questa ricerca sono ricercatori dell'università inglese. Mm-hmm. Questa ricerca sulle pecore è fatta da ricercatori dell'Imperial College in Berkshire e sono entrambe legate all'evoluzione naturale e ai cambiamenti climatici. Con i granchi c'entra sì. Questo? No, scusa, con le pecore, con le pecore. Sia pecore che granchi. Ah, beh, tutte e due, sì, va bene. Allora, iniziamo dalle pecore, abbiamo detto. Sì. Per effetto della selezione naturale noi ci aspetteremmo delle pecore sempre più grandi. Questo perché se sono più grandi sopravvivono e si riproducono più facilmente. Però in questo studio che è stato pubblicato su Science è saltato fuori che delle pecore selvagge in Scozia nel corso degli ultimi 25 anni sono diventate sempre più piccole in media. Uibò. Eh sì. Hanno fatto questo studio delle dimensioni e del peso delle pecore dal 1985 per appunto 25 anni e si sono accorte che erano sempre più piccole. Allora hanno costruito un modello numerico, un programma al computer, per simulare che cosa può aver contribuito al cambiamento delle dimensioni delle pecore. Quindi hanno messo dei vari fattori, dei fattori evolutivi, dei fattori ambientali, e quindi sono giunti alla conclusione che questo cambiamento, che è contro la nostra intuizione, il fatto che le pecore siano più piccole, è poco dovuto effettivamente all'evoluzione ed è più dovuto al cambiamento climatico. Ah. Al fatto che ci sia un riscaldamento globale, che sia naturale o dovuto all'uomo, questo diventa secondario. Diventa secondario. Però la questione è che essendoci degli inverni in media sempre più miti e più corti, è successo che gli agnelli sono ingrassati di meno. Ho capito. Che hanno bisogno di meno ciccia per sopravvivere all'inverno ed arrivare al primo compleanno. E in un certo senso, voglio dire, anche delle strutture fisiche meno performanti, se il clima è più agevole, ce la fanno e quindi sono efficienti come quelli più robusti. Esattamente, quindi non c'è una selezione nei confronti dei più forti. Sia gli anelli magri che gli anelli grassi hanno la stessa probabilità di sopravvivere in un clima più mite. Dico io che non si sorprendano gli ascoltatori che dei modelli matematici che poi girano su computer possano prevedere queste cose, perché non è la matematica il computer che prevede. Il modello viene caricato con un sacco di dati reali e quindi si ha, come dire, una simulazione di fenomeni assolutamente concreti, applicatissima in tanti casi, anche in meteorologia, questa strategia. Quindi vengono fuori dei dati veri, insomma, si scoprono delle cose. Chiaramente sono sempre delle approssimazioni, questo sì, delle semplificazioni, certo. Però sono delle semplificazioni che tengono appunto in conto della realtà, quindi si avvicinano a una spiegazione di questi fenomeni, certo. Curiosi. E i granchi diventano grandi invece? No. No, i granchi vanno sempre più a fondo. Eccola lì. Nelle acque più profonde. E questo perché il granchio reale ha bisogno di acque più fredde. Sì. E questa qui non è una novità, è una cosa che si sapeva già da parecchi anni. Sì. Questo ricercatore del National Oceanography Center in Southampton, sì, in Inghilterra, hanno raccolto 200 anni di dati oceanografici per studiare la distribuzione di questi granchioni. Perché sono grossi, il granchio reale è grosso. Sì, il granchio reale è grosso. Ce ne sono in realtà un centinaio di specie diverse con caratteristiche diverse. Tipo, alcuni hanno un diametro di 1,5 metri, che è enorme, con delle spine di 20 centimetri. Sì, sono veramente grossi, sì. Sì, altri magari sono più piccoli, ma hanno le zampe e le chele ricoperte di peluria setosa. Ce ne sono varie specie diverse, però all'interno della stessa famiglia. Quello che hanno in comune è che è stato scoperto recentemente che per riprodursi hanno bisogno di temperature dagli 1 ai 13-15 gradi centigradi e anche pochi gradi di differenza sono importanti. E quindi scendono perché è più freddo? Quindi scendono, sì, vivono più in profondità perché è più freddo e recentemente si sono diffusi in Antartide. Chiaramente questo è legato al cambiamento climatico, per cui sono, diciamo, la distribuzione di questi granchi è interessante non solo perché i granchi sono importanti per l'industria della pesca e sono dei predatori ferocissimi, ma anche perché sono degli indicatori dei cambiamenti della temperatura dovuto al riscaldamento globale. Facciamo insieme una considerazione: se mettessimo insieme tante notizie che abbiamo fatto in un anno di fenomeni di questo genere, effettivamente si vede come il cambiamento di temperatura è qualcosa che va a modificare tante cose in fila, sott'acqua, in aria, sulla terra, no? C'è proprio, come dire, un movimento. Sì, una catena di... Esatto, un movimento globale, no? Sarà bene pensarci. Un'ultima cosa simpatica, questi granchi si pensa che si siano evoluti da dei paguri senza guscio. Poi invece i paguri sono rimasti, come noi sappiamo bene, sono rimasti in superficie e invece il granchio reale che si è evoluto dai paguri senza guscio è migrato verso acque più fredde. Acque più fredde. Ok Paola, direi che fra pecore e granchi ci fermiamo qua. Ecco, aspetta perché pecore e granchi... Anche un'aquila c'entra, ma questa volta non è un animale, è la nebulosa dell'aquila. Ah, sì, sì. Sì, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori di guardare sul sito. C'è un'immagine spettacolare della zona intorno a questa nebulosa, sì. Una regione in cui si stanno formando stelle. Sì, forse una delle immagini più belle degli ultimi anni, più strane e più belle degli ultimi anni. Da vedere. Ciao Paola, okay. A presto. Ciao, ciao. Ormai l'abbiamo capito, quelli di Google si fermeranno solo con Google You, ovvero 6 miliardi di servizi mirati su ogni abitante della Terra. Questo per dirvi che è appena uscito Google Moon, uscita ovviamente progettata nel quarantennale dello sbarco sulla Luna. Ve ne parla Maurizio Menis. È già da qualche tempo che Google, dopo Google Earth, ha traslocato nello spazio, prima con Google Sky e Google Mars e ora, infine, con Google Moon, che, insomma, non poteva mancare nel 40° anniversario dello sbarco sulla Luna. Beh, forse qualche ascoltatore coi crampi di indigestione lunare penserà che tutto sommato di questi tempi si può ben sopravvivere anche senza sperimentare l'ennesimo pasto a base di crateri, razzi e omini in bianco che saltellano su sfondo nero, conditi immancabilmente con un pizzico di retorica. Tuttavia, passata l'indigestione, consigliamo anche a questi ascoltatori di salire a bordo di Google Moon e di fare un salto sulla Luna, perché, insomma, questa modalità di esplorazione, che in fondo è nata da pochi anni, ha oggettivamente una sua quota originale di suggestione. Ebbene, chi è già pratico di Google Earth troverà in Google Moon molte funzioni abituali. La Luna si può girare, rivoltare in tutti i modi, sorvolare a varie altezze. Potete sovrapporre alla superficie della Luna mappe geologiche, topografiche e così via. La base, insomma, è quella di tutte le applicazioni Google Earth. Ma le cose migliori vengono fuori soprattutto addentrandosi nelle aree della Luna ad alta risoluzione o scoprendo gli oggetti lasciati dall'uomo, sorprendentemente numerosi. Alcuni di questi esistono anche i modelli 3D. Ecco, per esempio, cliccando sulle numerose bandierine che contrassegnano appunto i luoghi in cui l'uomo ha lasciato qualcosa, potreste rimanere sorpresi dal numero di sonde schiantate sulla superficie lunare, non sempre di proposito, in qualche caso però sì. Insomma, la Luna porta oggi moltissime tracce del passaggio degli uomini e delle molte sonde, dei molti robot che sono stati inviati là per esplorare, per conoscere il nostro satellite. Ecco, qua e là, a proposito di conoscere il nostro satellite, la risoluzione del terreno lunare lascia un po' a desiderare, questo va detto. Sicuramente ci sono immagini più dettagliate della Luna a cui Google non ha avuto accesso. Ma tutto sommato, bisogna dire anche questo, ci sono molte aree della Luna in cui c'è veramente poco da vedere. Mentre il dettaglio e la ricchezza di informazioni riservata alle missioni Apollo è decisamente sorprendente. La risoluzione del terreno scende nei luoghi in cui l'uomo ha messo piede addirittura a pochi centimetri. Per ogni missione è stata ricostruita una mappa dettagliata di tutti i percorsi seguiti dagli astronauti, degli strumenti lasciati sul suolo e delle operazioni svolte. Potete ripercorrere nei dettagli, in particolare poi anche la prima e l'ultima missione sulla Luna guidati da Buzz Aldrin e da Harrison Schmitt, l'ultimo ad aver calcato il suolo lunare. Ecco, infine c'è una piccola chicca che ci fa piacere segnalare. C'è in pratica la possibilità di mettersi al posto degli astronauti laddove hanno scattato le immagini più celebri. Quelle stesse immagini che però hanno anche fatto discutere molto, in cui molti ritengono di trovare segni di contraffazione. Ebbene, il team di Google qui ha ricostruito la distorsione in modo molto intuitivo ed immediato, la distorsione del paesaggio che è causata dagli obiettivi grandangolari utilizzati appunto dagli astronauti per scattare queste famose foto. Un giochino che è molto divertente ma che potrebbe rivelarsi assai utile, quindi a sfatare questa vecchia e mai sopita polemica secondo cui l'Apollo 11 non sarebbe mai stato sulla Luna. Insomma, se avete ancora dubbi che le ombre nelle foto della Luna siano convergenti perché è tutta una messa in scena, beh, date un'occhiata a Google Moon, vi dovrete ricredere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al quiz, il nostro gioco. Bene, ultima domanda, perché poi per agosto invece non avremo più quiz, però vi ricordo invece che Mebius va in onda regolarmente il sabato e la domenica e poi ci sentite anche ogni giorno alle 4. Allora, la domanda è: quale delle tre rivoluzionarie tecnologie che sto per elencarvi sta per arrivare? La prima, dei fogli elettronici sottili come quelli di un quotidiano sui quali ogni mattina caricheremo la nuova edizione. Ci scriverete fogli. Un sistema di sensori che blocca l'automobile quando al suo interno si trova gente dal cui respiro traspare una percentuale elevata di alcol. Ci scriverete alcol. Terza e ultima possibilità, un passeggino per bambini con monitor incorporato per la proiezione dei cartoni animati. Ci scriverete bambini. Dove? Beh, è il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Fausta Copenaghen, lotta per l'anima della fisica moderna, scritto da Gino Segre e edito da Il Saggiatore. In collaborazione con IBS.it. Fra poco sentirete delle voci, ma sono delle voci di automobili, autoparlanti. Come mai? Vi spiega tutto Chiara Albicocco, perché non siamo lontani dal dialogo fra automobili, ovviamente con un loro specifico linguaggio. Oh! Dove sono? Sei a Radiator Springs, la più bella cittadina della contea di Carburetor. Ti va un po' di biocarburante? Ma fatti un autolavaggio, Hippie. Guardami, sono Saitama McQueen, la famosa auto da corsa. Ti adoriamo, Saitama! Sono un concentrato di velocità e aerodinamica. Ma allora conosci tante Ferrari? No, quelle corrono in un altro campionato. Che c'è? Luigi segue solo le Ferrari. Le avrete riconosciute sicuramente, le auto parlanti protagoniste di Cars, il film di animazione che vede sfrecciare auto di tutti i tipi sulle strade della California. La caratteristica distintiva di questi bolidi è che possono parlare tra loro. Bene, questo è proprio il punto. In futuro anche noi potremo metterci alla guida di auto che possono comunicare tra loro. Le informazioni che si scambieranno non saranno ovviamente come quelle che abbiamo sentito nel trailer, ma saranno più serie e volte a garantire una maggior sicurezza stradale. Non sto farneticando, ma il Politecnico di Milano sta veramente muovendosi in questa direzione. È così, ingegner Braghin? Sì, sì. Intanto benvenuto a Francesco Braghin, lei è ingegnere presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e state lavorando proprio su questo, su dei sensori che potranno mettere in comunicazione le auto tra loro? Non li definirei sensori, nel senso che il sensore è quello che sente qualcosa. In realtà quello sul quale stiamo lavorando è un sistema per alimentare questo sensore e una rete per far parlare tra di loro il sensore con l'autoveicolo e poi gli autoveicoli tra di loro e verso l'infrastruttura. Ecco, ci deve assolutamente spiegare come funziona questo dispositivo, come fanno le auto a comunicare tra loro? Assolutamente sì, allora io partirei dal sensore, certo. Cioè da quello che vogliamo misurare. Allora l'obiettivo è quello di misurare le condizioni di aderenza tra pneumatico e asfalto, in modo tale da avere un'informazione che può essere utile a tutti i sistemi di controllo oggi a bordo veicolo e in domani anche nuovi sistemi di controllo. Questo sensore deve essere alimentato per essere in grado di leggere qualcosa e per poter trasmettere l'informazione che ha letto dalla strada. Quindi insieme al sensore, nella posizione che oggi è l'interno del pneumatico, c'è un sistema che recupera energia elettrica da un'energia meccanica che è l'energia di deformazione del pneumatico quando questo rotola. Dunque, le informazioni che si rilevano sono fondamentalmente su che tipo di condizioni ci sono sul manto stradale, corretto? Sì, questa diciamo è l'informazione più nobile. In realtà insieme a queste informazioni abbiamo un'idea di che forza si sta scaricando sul pneumatico, come questo sta rotolando, adesso in termini tecnici certo. Si chiamano angolo di deriva, scorrimento, angolo di camber, eccetera. Ecco, una volta percepiti poi questi parametri, cosa succede? Allora, questi parametri vengono criptati all'interno del pneumatico e inviati verso l'abitacolo dell'autovettura. La criptazione è importante perché, come puoi immaginare, il coefficiente d'attrito verrà utilizzato da centraline di controllo a bordo dell'autoveicolo per ad esempio manovre di emergenza, quindi dobbiamo garantire la sicurezza e l'integrità di questa informazione per evitare che manovre di sicurezza vengano impostate su dei dati sbagliati. Quindi questa è una prima rete, chiamiamola locale, tra il pneumatico, tra il nostro sensore e l'abitacolo e il veicolo stesso. Sì. E poi c'è ovviamente lo step che più ci interessa, che è quello che mette in comunicazione, che mette in rapporto un'auto e l'altra. Assolutamente sì, nel senso che immaginiamo la seguente situazione: io sto percorrendo una curva, a metà di questa curva scopro di avere il manto stradale unto, perché sì. Qualcuno ha perso dell'olio. A questo punto per la velocità con la quale stavo percorrendo quella curva esco di strada. Adesso supponiamo che non succeda niente di grave, certo. Però quell'informazione lì è molto importante per tutti gli autoveicoli che mi stavano seguendo, perché loro potranno rallentare e quindi percorrere quella curva in assoluta sicurezza. Sì. Quindi quell'informazione che io sono stato in grado di leggere, purtroppo per me in ritardo, diventa fondamentale per tutti gli autoveicoli che mi seguono. Ecco, a questo punto nasce la rete tra veicoli. Ecco, ci spieghi come avviene la comunicazione? Anche in questo caso, è una comunicazione ovviamente wireless, si sta pensando a un protocollo, o meglio, stiamo già implementando un protocollo di comunicazione tipo un wifi particolare, nel senso che è un wifi tra veicoli che non richiede l'intervento umano per l'accensione, lo spegnimento, eccetera. È automatico. Assolutamente sì. È un protocollo di comunicazione a due livelli sostanzialmente. Uno di comunicazione tra veicolo e veicolo, che ha delle distanze di comunicazione abbastanza ridotte. Quindi tra veicoli che si susseguono, non che arrivano dal senso opposto, dalla corsia opposta, giusto? Ecco, in realtà il dato tale quale mi arriva alla mia antenna e io non sono in grado di capire se è proveniente da un veicolo che mi viene incontro e quindi sta percorrendo una carreggiata diversa dalla mia, oppure da un veicolo che mi precede e quindi d'accordo, sta percorrendo. Potrebbero quindi arrivarmi da entrambi. Esatto, quindi il dato tale quale non mi garantisce la sicurezza. Quindi insieme a questo dato dobbiamo fornire informazioni circa la posizione del veicolo che sta mandando questo dato, nonché la sua velocità di percorrenza, la sua direzione. Ah, quindi un coinvolgimento anche dei dati, diciamo, satellitari della assolutamente localizzazione. Sì, quindi il dato che proveniva dal pneumatico e che mi diceva sotto il pneumatico anteriore destro ho un coefficiente d'attrito pari a 1,3 viene integrato con delle informazioni che provengono dal navigatore, ad esempio, certo, oppure da sensori a bordo veicolo, quali, non so io, accelerometri, giroscopi, eccetera. Okay. Questo pacchetto di dati viene inviato sostanzialmente a raggiera intorno al veicolo. All'interno di ogni veicolo ci sarà una centralina che, leggendo questi dati, è in grado di capire se sono informazioni importanti per me e quindi relative a un veicolo che è davanti a me, oppure relative a un veicolo che è dietro di me, quindi sono importanti, oppure a un veicolo che sta percorrendo una carreggiata adiacente alla mia e quindi non sono importanti. E ok, a quel punto, avendo percepito queste informazioni, possiamo comportarci di conseguenza e quindi magari frenare o essere accorti, più attenti. Esattamente, nel senso che il primo livello di implementazione sarà la luce rossa che ti si accende sul cruscotto e ti dice: attenzione, davanti a te c'è una situazione di pericolo, di emergenza. In realtà il sogno lontano sarà quello di avere un veicolo che interviene in maniera automatica a fronte di queste informazioni relative alla sicurezza, quindi potrebbe decidere di rallentare autonomamente. Ok, e invece come la mettiamo con le strade piuttosto trafficate? Cioè, mi immagino la mia auto in autostrada ad un certo punto percepirà un sacco di informazioni di questo tipo, perché i veicoli che gli sfrecciano accanto, che gli sfrecciano di lato, sono numerosi. A quel punto? A quel punto sarà tutto il gioco della centralina a bordo veicolo essere in grado di rielaborare questa quantità di dati selezionando solo quelli utili. Diciamo che sulle autostrade ipotizziamo quello che dicevo prima, un secondo livello di rete, quello che è relativo a veicolo e infrastruttura, in quanto le autostrade sono molto ben monitorate già adesso. Okay. Quindi io immagino che le informazioni che provengono dal mio veicolo io le invio agli altri veicoli, nonché a delle stazioni a terra. Queste stazioni a terra sono fisse e saranno in grado di valutare la situazione della strada in quella posizione. Tipico esempio l'autostrada. Okay. A questo punto, quando sto percorrendo un'autostrada, sì, mi arriveranno innumerevoli informazioni dai veicoli adiacenti, ma le informazioni cui farò riferimento e che riterrò più valide saranno quelle che provengono dall'autostrada stessa, dall'infrastruttura. E senta, possiamo pensare di fare un'ipotesi dei tempi in cui potremo veramente metterci alla guida di auto di questo genere? Ipotesi di tempi? Sì. Lunghe. Estremamente nel senso lunghe. No, nel senso che la comunità europea sta spingendo molto in questa direzione, sta finanziando una serie di progetti molto importanti. Il grosso ostacolo quando si porta avanti una ricerca di questo tipo è l'accettazione da parte del cliente. Cioè, oggi stiamo ancora discutendo sullo sterzo meccanico oppure elettrico. Ok. E lo sterzo elettrico esiste da 20 anni, solo che il cliente deve percepire o deve essere sicuro, sì, che lo sterzo elettrico garantisca la sicurezza che ha uno sterzo meccanico, quindi Speriamo insomma che la nostra chiacchierata possa favorire in qualche modo questo tipo di percezione positiva. Va bene, allora quando poi sarà pronto un prototipo o si sarà deciso di utilizzare questo tipo di sensori, l'aspettiamo per raccontarci insomma come funziona in maniera dettagliata. Guardi, i prototipi, le posso dire subito, esistono già e li stiamo già testando. Il grosso problema sarà la diffusione sul mercato globale. D'accordo, allora davvero buon lavoro, ingegnere. Grazie, arrivederci. Giovedì scorso è uscito il sesto DVD della collana Le grandi scoperte della scienza, ve lo ricordo, è quello dedicato alla genetica, l'area di ricerca che negli ultimi 10 anni si è proposta come una rivoluzione dalle enormi conseguenze. La collana vi è proposta dal Sole 24 Ore in collaborazione con Discovery Channel e quindi il canale dei documentari che probabilmente conoscete, interamente dedicato alla scienza e alla tecnologia. Le prossime uscite saranno Medicina e poi l'ultima, quella dedicata alla fisica. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parafrasando il titolo di quel vecchio film, si potrebbe dire: santo cielo, mi si sono ristretti i dinosauri. Questa è proprio bella, non ce l'aspettavamo, è Barbara Galavotti che ve la racconta, sentite. I brontosauri sono animali simbolo. Immaginate di dire a una persona: sei un brontosauro. Sicuramente si sentirà accusata di non essere proprio moderna. Comunque l'epiteto allude anche una mole corporea, diciamo, un po' appesantita. Dunque, sulla mancanza di modernità c'è poco da fare. I brontosauri sono vissuti oltre 150 milioni di anni fa, in pieno giurassico, quindi sono indubbiamente antichi. Sulla mole, però, c'è da ridire. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista della Società Zoologica di Londra ha avanzato un'ipotesi inedita: un brontosauro magro, magrissimo, appena 18 tonnellate. Non è tanto se si considera che la creatura era lunga 24 metri, alta 8 e fino a poco tempo fa si pensava pesasse 38 tonnellate. In fondo, 18 tonnellate è il peso di appena un paio di elefanti africani. Insomma, dinosauri magri come ghepardi? Cosa fanno i paleontologi? Com'è possibile sbagliare il peso di un animale di 20 tonnellate, cioè 20.000 chili? Proviamo a capirlo con Raffaele Sardella, paleontologo dell'Università di Roma La Sapienza, che è già stato nostro ospite. Buonasera. Buonasera. Devo chiederle di difendere la categoria, perché insomma, com'è possibile sbagliare di 20 tonnellate il peso di un animale? Beh, c'è da dire innanzitutto che si parla di stime di pesi di animali vissuti nel passato e finché è abbastanza facile, entro certi limiti, ricostruire il peso di animali simili a animali che vivono oggi, come il mammut e l'elefante, per esempio, è difficile ricostruire peso e fisionomia di animali che sono molto diversi da animali che vivono oggi. Si può fare una stima, non so, la densità del coccodrillo con la densità di un brontosauro ricostruito, però chiaramente sono metodi che portano un margine di errore molto ampio. In effetti voi avete anche discusso molto su come erano messe le zampe di questi animali. Sì, per esempio c'è stato un lungo dibattito riguardo alla natura dei dinosauri. In realtà i dinosauri non sono dei rettili veri e propri, classici veri e propri, sono una categoria un po' diversa, hanno caratteristiche che li avvicinano più ai mammiferi per certi aspetti. Tra queste caratteristiche hanno gli arti colonnari cosiddetti, soprattutto i sauropodi, il gruppo di cui fanno parte il brontosauro. Si tratta di animali molto grandi e questi arti sono dritti sotto il corpo e non come negli altri rettili laterali. Lo stesso nome rettile, d'altronde, significa reptare, strisciare, quindi gli arti nei rettili veri e propri servono solo per spingere il corpo in avanti che striscia in qualche modo. Pensiamo a un coccodrillo o una lucertola, sì, rispetto a un gatto o un elefante. Esattamente, mentre questi animali, se come è stato fatto più di un secolo fa, venivano ricostruiti con la postura delle zampe come i rettili, appunto come le lucertole, avevano un problema, cioè lo scheletro toccava, la gabbia toracica dell'animale toccava il suolo e quindi addirittura avrebbe dovuto scavare un solco, diciamo, nel suo camminare, e questo chiaramente era innaturale. E allora già da oltre un secolo fa i paleontologi si rendevano conto che la struttura dei dinosauri doveva essere, almeno soprattutto di questi grandi dinosauri, più simile a quella di un elefante, di un rinoceronte, piuttosto che quella di un lucertolone. E dalla struttura poi si ricavano informazioni anche sul peso? Anche perché comunque questi arti erano strutturati come colonne, appunto, per sorreggere il peso di un animale molto grande, lungo appunto oltre 20 metri. E qui però si va nel campo poi delle stime, perché non sempre lo scheletro è completo e quindi bisogna fare delle stime su parti dello scheletro, confrontandolo con animali simili come possono essere i coccodrilli o gli elefanti che sono, diciamo, strutturalmente simili. Però si fanno degli errori inevitabilmente. E quindi alla fine come si fa a pesare un dinosauro? Diciamo che innanzitutto bisognerebbe avere lo scheletro completo o comunque una stima abbastanza vicina alla realtà, e magari pochi metri di coda possono fare differenza anche di diverse decine di chili, in effetti. Ma al di là di questo, si calcola la densità, diciamo, media di un organismo, come può essere quello di un coccodrillo attuale, e si trasferisce questa densità al volume del corpo, diciamo, del dinosauro, e si ricava una stima della massa e appunto poi in conseguenza del peso corporeo. Però a seconda delle equazioni, a seconda degli strumenti e dei confronti utilizzati, si possono avere margini di errore anche molto ampi. In passato sono stati fatti anche dei tentativi molto più artigianali. Sì, diciamo che il problema di come funzionassero questi animali l'ha colpito i paleontologi da molto tempo. Per esempio, animali così pesanti, per molti paleontologi del passato, dovevano vivere immersi nell'acqua tutto il tempo, e alcuni paleontologi hanno tentato proprio di immergersi a 10 metri di profondità, all'altezza della base del collo di questi grandi sauropodi, e cercare di respirare con un tubo all'interno di una piscina, ma questa è stata una pratica molto pericolosa, perché si rischiava la pelle, e quindi si è capito che non era naturalmente possibile una cosa del genere. Quindi questi animali dovevano stare in superficie. Fra l'altro, le piste, le impronte dei dinosauri fossili, che sono uno degli argomenti di studio più affascinanti degli ultimi decenni, mette in evidenza come questi animali hanno lasciato impronte di gruppi di sauropodi in cammino lungo le sponde dei fiumi, e addirittura si è visto che gli adulti, probabilmente, cioè le impronte più grandi, erano esterne rispetto alle impronte più piccole, quindi forse c'era un gruppo, un branco organizzato con gli adulti che proteggevano i piccoli al centro, addirittura. Ecco, però l'esperimento della piscina risale a circa un secolo fa, adesso forse usate metodi più moderni. Adesso si usa molto anche il computer, in effetti, si lavora sulla struttura dello scheletro, sulla ricostruzione delle masse muscolari, e si adottano dei modelli 3D al computer, appunto, un po' come succede per le strutture architettoniche o per le macchine, insomma, per le macchine da corsa, no? Si realizzano dei modelli al computer e si vede quanto questo modello possa essere compatibile con un ambiente acquatico, un ambiente semi-acquatico, un ambiente terrestre, completamente terrestre. Grazie, Raffaele Sardella. Buonasera. Prego. Arrivederci. Buonasera. Avrila Colla, buonasera. Buonasera. Designer, Avrila Colla è designer e anche docente di Design for All all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e noi dobbiamo incominciare a partire da questo Design for All, che è anche il titolo di un libro che lei ha scritto con anche un contributo di Daniela Gilardelli, dopo ne parleremo. Design for All, dobbiamo riuscire a trovare una definizione, una spiegazione di questa cosa. C'è un sottotitolo, il progetto per l'individuo reale, questo forse incomincia a darci qualche indicazione, però a Colla proviamo insieme a capire che cos'è questo Design for All. C'è anche un'associazione europea di cui lei è vicepresidente, quindi non è solo un'avventura italiana, ma insomma Design for All, progettazione per tutti. Ecco, la definizione ufficiale è che è il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il concetto alla base è che un buon progetto abilita, mentre un cattivo progetto disabilita. E base del Design for All, la missione è migliorare la qualità della vita degli individui valorizzando le specificità, quindi la diversità umana, come un'effettiva ricchezza. Perché il design privo di for all, design, abbiamo delle facoltà di design, per esempio in Italia, è già qualcosa che si dichiara come uno strumento, una disciplina in grado di trovare le funzionalità migliori dei progetti insieme anche a una qualità estetica. Voi invece col Design for All aggiungete degli elementi fondamentali di differenziazione, no? Sì, il Design for All è in sostanza il progetto al suo livello di eccellenza in risposta alla società di oggi, quindi prende la differenza umana che noi esperiamo tutti i giorni e dà un peso, il giusto peso all'interno del progetto. È il focus sulla differenza umana. Proviamo, abbiamo un esempio di progettazione che ci può essere utile per capire ancora di più, ancora meglio. Ecco, per esempio, uno dei racconti nel libro parla delle scale, che ho definito come demoni innocenti, vittime della controcultura rivoluzionaria. Le scale. Le scale. Va Le bene. Scale come per mai? Noi sono un po' diventate adesso il simbolo la metafora per eccellenza delle barriere architettoniche e sono diventate un tabù progettuale, cioè non possiamo più dire scale noi nel nostro ambiente. Chi progetta degli edifici il più possibile deve eliminare le scale. Certo, le scale creano effettivamente una barriera a tutte le persone, gli individui che fanno uso di mezzo a ruote, sì. Dalla mamma col passeggino alla persona che porta le Coca-Cola su in ufficio al disabile in sedia a rotelle. Certo. Però il fatto è che le scale hanno una loro utilità, ci sediamo, ci raccontiamo le cose, hanno una dimensione sociale, hanno una dimensione ludica. L'impass sta nel pensare che la differenza in quota, alla differenza in quota, cioè andare da un posto più basso a un posto più alto o viceversa, il progetto risponde o con la rampa o con le scale, ed entrambi hanno dei lati molto positivi e dei lati molto negativi, sia a livello di socialità che a livello di deambulazione. La risposta del Design for All, che non vuole dimenticare nessun desiderio, nessuna specificità e nessuna necessità di alcuna persona, è rispondere con un sistema. Con un progetto globale che contempla tutti i possibili utilizzi. Esatto, e quindi affiancare diversi modi di passare da un livello a un altro, rispetto al contesto, al tipo di edificio, al tipo di installazione. Certo. Per esempio le scale, la rampa e l'ascensore o altri sistemi di accesso. Ecco, senta, si potrebbe pensare però che dovendo contemplare un po' tutto e dovendo soddisfare diverse funzioni, diverse abilità, venga fuori qualcosa che va bene ma però un po' bruttino. E questo è il cliché tipico, no? Se funziona non può essere bello, oppure se è così funzionale non riusciamo a farlo bello come riusciremmo a farlo se fosse scomodo. È una cosa che perseguita ogni progettista. In realtà, nel libro lo spiego anche, il bello si capisce meglio, ha una forte valenza cognitiva, e abbiamo diversi esempi in Europa di buone pratiche e anche in Italia con questo nuovo telecomando domotico e chiave transponder che ha fatto la BTCino. Sì, se ne parla nel libro, sì. Di Design for All, che è anche stato selezionato per il Compasso d'Oro per le sue qualità di design, non per le sue qualità di Design for All. E quindi questo è un'ulteriore dimostrazione del fatto che io posso fare Design for All bello, esteticamente appagante, poetico e teatrale, anzi, se non è bello, non è Design for All. Addirittura rovesciato. Addirittura rovesciato. Ma insomma, perché se il progettista ci dà dentro, è bravo e pensa bene le cose, mette insieme il bello con l'iperfunzionale a questo punto. Infatti, è la sfida del progettista. Se non ci si riesce, è la colpa del progetto. È il progetto che disabilita, anche nell'esperienza estetica. Bene, allora in conclusione ricordo il libro Design for All, scritto da Avril Accolla e anche con un contributo di Daniela Gilardelli per quanto riguarda il marketing del Design for All. Il libro è edito da Franco Angeli. Avril Accolla, buonasera, grazie. Buonasera, grazie a lei. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo la soluzione del quiz, dovevate dirci quale di tre rivoluzionarie tecnologie sta per arrivare. Non riesco a capire come mai nessuno abbia già pensato di mettere un monitor nei passeggini, mi sembra un'idea perversa che potrebbe già esserci, non credete? Invece mi parrebbe un'ottima invenzione l'abitacolo di automobili che misura il tasso di alcol posseduto dai passeggeri. Il motore non parte e il problema della guida in stato di ubriachezza è risolto. Niente di tutto questo c'è ancora. La risposta giusta, e forse vi parrà strano, è il quotidiano elettronico. Qualche primo concreto esperimento si è già visto, sono fogli abbastanza leggeri sui quali si può scaricare, diciamo così, l'edizione quotidiana di un giornale. Tanta carta risparmiata e però la possibilità di leggersi il quotidiano seduti al bar, bevendo un caffè, soprattutto adesso che qualche giorno di vacanza è arrivato. La tecnologia è a buon punto, vedremo quando ci arriverà fra le mani. E adesso continuiamo con i nostri temi, ci resta ancora qualche scampolo lunare in queste settimane di anniversario per il quarantennale dello sbarco sulla Luna. Vi abbiamo raccontato cose diverse su questo tema, ma ci restava ancora quella storia del terribile scherzo che il quotidiano New York Sun fece ai propri lettori. Dobbiamo tornare al 1870 e a quei tempi vi riporta Maurizio Melis. Intorno alla metà dell'Ottocento c'erano già telescopi piuttosto potenti, ma ancora le notizie viaggiavano da un capo all'altro del mondo a mezzo nave. Ci volevano mesi perché circolassero. In Inghilterra, per esempio, c'era un telescopio con uno specchio da 1,20 m di diametro, niente male quindi. Ma per andare dal nuovo mondo al vecchio mondo non c'era alternativa ad alcune settimane di navigazione. Perché vi diciamo questo? Perché su questa strana simmetria tecnologica si regge una bufala giornalistica feroce ma anche molto divertente che chiama in causa la Luna, figli e nipoti d'arte e il quotidiano New York Sun. Io però qui mi fermo e chiamo in causa la nostra ospite che è Patrizia Caraveo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che insomma ormai alcuni ascoltatori di Mebius conosceranno. Buonasera Caraveo. Buonasera. Allora, ci racconti un po' questa storia. Siamo in America nel 1835, che cosa succede? Succede che è estate e un redattore, un giornalista di questo New York Sun si chiede probabilmente come cercare di attirare l'attenzione dei lettori e quindi decide di raccontare una palla colossale. dicendo che un grande astronomo inglese, John Herschel, che è figlio di William Herschel, lo scopritore di Urano, aveva deciso di impiantare un grosso telescopio in Sudafrica, a Cape Town, dove l'Inghilterra aveva un'importante colonia, per studiare il cielo sud. Quindi un altro figlio d'arte, anzi nipote, di un grande filosofo inglese, Locke, prende la palla al balzo e dice: il grande astronomo Herschel dal Sudafrica con il suo straordinario nuovo telescopio di prestazioni assolutamente mai viste prima d'ora, è in grado di vedere bellissime immagini della Luna. Talmente belle, talmente nitide, talmente chiare che si vedono dei dettagli mai visti prima d'ora, dei dettagli a livello del metro letteralmente, perché si vedono i templi sulla Luna, si vedono delle foreste sulla Luna, laghi, cascate e udite udite si vedono esseri volanti sulla Luna. Quindi si vedono gli abitanti della Luna. Ovviamente però il nostro sapeva che dopo un certo periodo di tempo qualche copia del Sun sarebbe arrivata a questo povero Herschel che su una nave portata in Sudafrica, dove noi non sappiamo se Herschel le vide, se ci rise sopra, se ci si arrabbiò, eccetera, ma il nostro Locke pensò bene di giocare d'anticipo e dopo circa un mese e mezzo di panzane, una più terrificante dell'altra, diede la serale notizia ai suoi lettori che l'astronomo si era dimenticato il telescopio aperto e quindi non l'aveva protetto contro i raggi del sole. Chiaramente il sole focalizzato nel fuoco del telescopio aveva fuso gli strumenti e quindi non era più possibile per nessuno controllare o rifare le osservazioni di John Herschel. Certo. E qui si chiude la prima puntata infatti, di New York. Infatti, perché poi invece dall'altra parte dell'oceano c'è una sorta di risposta partenopea alla provocazione di Locke. Assolutamente, perché le traduzioni del New York Sun arrivano a Napoli e a Napoli trovano un terreno molto fertile perché trovano Pulcinella. Pulcinella è un personaggio più o meno immortale, lui sostiene di essere stato presente quando c'era il diluvio universale, eccetera. E ovviamente ha un rapporto diretto con la Luna, chiaramente. Quindi si sente punto sul vivo quando gli dicono che questo astronomo inglese, che lui poi alla fine chiama Herschel, va a vedere questi dettagli sulla Luna e quindi arma una nave che, diciamo, munisce di delle specie di ruote dentate, perché il suo una cremagliera, diciamo. Una cremagliera, sì, perché il suo modo di andare sulla Luna è quello di legare delle catene tra Napoli e la Luna, certo, e di fare scorrere la sua nave su queste catene. Mi sembra ovvio. Ci sono delle bellissime stampe d'epoca, certo. C'è una stampa che fa vedere la partenza di questa nave, un'altra stampa che fa vedere il ritorno della nave. E alla fine Pulcinella dice che ha visto meraviglie e dice a Herschel che, insomma, evidentemente le sue scoperte se le può friggere, perché lui, Pulcinella, è arrivato molto più in dettaglio, molto più a fondo a studiare il bestiario lunare. Ecco, senta, mi pare di poter dire che in quegli anni c'era un'opinione pubblica molto propensa a pensare che relativamente vicino, quindi sui pianeti del Sistema Solare, addirittura sulla Luna, potessero esistere delle altre forme di vita. Era dato quasi per certo che ci fossero forme di vita sugli altri pianeti. Non era affatto considerato una follia. Una stramberia. Assolutamente no. Lo sappiamo da molto poco, tutto sommato, quali sono le vere condizioni sugli altri pianeti. In un certo qual senso, giustamente, gli astronomi dei secoli scorsi facevano un ragionamento molto molto semplice, dicevano la Terra è un pianeta roccioso che è similissimo a Marte e a Venere, perché sono molto simili dal punto di vista fisico. Per cercare di capire l'atteggiamento mentale dei nostri antenati, a me piace molto ricordare l'argomento di Flammarion sul pesce che ragiona, è quello che lui chiama le poisson raisonneur. Quando noi diciamo che la vita sulla Luna è impossibile perché non c'è aria, noi applichiamo lo stesso ragionamento che fa il pesce, che dice che non sarebbe possibile la vita al di fuori dell'acqua. Quindi questo qui ci fa capire proprio qual era l'atteggiamento assolutamente possibilista dei nostri antenati verso la possibilità di vita sugli altri corpi del Sistema Solare. Però, insomma, l'idea che ci fossero civiltà tecnologiche così vicine oggi forse non sarebbe accettata, non lo so, con la stessa nonchalance. All'epoca i viaggi interplanetari non erano neanche pensabili. E c'erano solo alcuni visionari che pensavano che fosse possibile andare nello spazio. Quindi gli abitanti di Marte stavano su Marte. Stavano su Marte. Quindi, è tutto lì, comunque. Ecco. Grazie mille, professoressa Caraveo. Arrivederci. Vi ricordate il concorso nel quale si vinceva il pezzetto di Luna? Il concorso Dite la vostra al posto di quello che disse Armstrong sbarcando appunto sul nostro satellite. E noi di Möbius ve l'abbiamo proposto in collaborazione con la rivista inglese New Scientist, sono loro gli ideatori. Bene, noi i nostri vincitori li abbiamo già scelti, li abbiamo già comunicati nella scorsa puntata, anzi uno, Corrado, non si è fatto ancora vivo, per favore Corrado chiamaci. E invece allora il pezzetto di Luna l'ha vinto un australiano con una frase che, beh, insomma, non ci è parsa particolarmente originale. La frase è questa: ehi Yuri, e Yuri sarebbe Gagarin, il primo uomo nello spazio, ehi Yuri, possiamo tenerla fra noi due questa cosa? Finita qui, visto che Armstrong appunto era stato il primo a mettere piede sulla Luna. Beh, forse c'era qualcosa di meglio, non vi pare? Qualcosa invece di altrettanto prezioso di un pezzetto di Luna forse è stato battuto a un'asta che si è tenuta a New York la scorsa settimana. Ve ne abbiamo già parlato. In vendita vari oggetti posseduti dagli astronauti che sono andati sulla Luna. Sì, ci siamo domandati che significato dare a questa iniziativa, una svendita in fondo di ricordi proprio nel 49. giornale di quella grande impresa. Comunque, il pezzo che ha raccolto l'offerta più alta è una mappa spaziale usata da Buzz Aldrin mentre era sulla Luna. La usava per fare il punto, come si usa in navigazione. È un oggetto molto bello, certamente, assegnato per la cifra ragguardevole di $218,000. Sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate delle pagine dedicate all'asta con le immagini di alcuni di questi oggetti, però c'è anche un sito internet con il catalogo intero della mostra. Secondo prezzo uscito dall'asta, $206,000 per l'agenda utilizzata dall'astronauta Charles Duke durante la missione Apollo 16. Queste missioni furono quelle ben più lunghe di Apollo 11. Gli astronauti rimasero sulla Luna anche per un giorno e mezzo, compiendo 2-3 uscite dal modulo e usando anche dei veicoli elettrici. L'agenda di Charles Duke contiene infatti il resoconto delle attività in esterno. Con prezzo identico, $206,000, è stato battuto un joystick usato dall'equipaggio di Apollo 15, joystick utilizzato per guidare il modulo che si appoggiò sulla Luna. $36,000 infine per la borsa nella quale erano contenuti i film girati sulla Luna da Apollo 15. Queste alcune delle cifre battute all'asta che complessivamente ha venduto per $1,700,000. Siamo in conclusione di puntata e vi ricordo che per tutto agosto Moebius vi aspetta anche alle 16 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì e naturalmente anche il sabato e la domenica. Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.